Dialogo trentesimo. Raccontò Irbad bin Sariya. Un giorno l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la vi in gloria, guidò la nostra devozione quotidiana obbligatoria e poi, rivoltosi verso di noi, fece un sermone le cui parole ci fecero piangere e commossero i nostri cuori. Quando ebbe finito, un uomo disse: «O apostolo di Allah, il tono del tuo sermone e quello che ci hai detto avevano il sapore di un discorso da Dio. Consigliaci». Allora, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: «Vi consiglio il timore di Allah, l'Onnipotente, il Maestoso, e l'obbedienza, anche se il vostro capo sarà uno schiavo negro. Coloro i quali mi sopravviveranno vedranno esplodere le controversie, ma voi attenetevi strettamente alla mia pratica dell'Islam e a quella di coloro che, essendo stati ben guidati, saranno i miei successori. Attenetevi strettamente e non demordete. Rifiutate ogni nuova dottrina o pratica, poiché ogni nuova dottrina o pratica è un'innovazione, e ogni innovazione è fuorviamento, e il destino del fuorviamento è il fuoco».